avanti, chi chiama a canale 10? Hola. Chi è che chiama a canale 10? Avanti. K, salutoni, lupo grigio. E a che ora? Io sono appena entrato qua, no. Hola. Non ho sentito nessuno. Possiamo un po'. 7 Radio 5. Ok. Ciao Antonio. Ui, buonasera. No, stavo provando il mic perché è stasera che stavo ascoltando, ma non c'è nessuno, adesso ho provato a schiacciare che ci sei tu. Ciao, no, già va bene già. Ciao, pago. Affidarsi un po' appena. Va bene di cosa? Sì, vabbè. Sono da un po' che non è entrato. Ma è normale che quando schiaccia la portata poco a poco si abbassi la luce. Sì, no. Ui. Ma è normale che quando schiaccia la portante poco a poco si abbassa la luce. È normale sì, perché sta assorbendo. Ah, kappa. Ah, va bene, là. Perché c'è da un po' che non ne uso, quindi. No, va bene. A tutti saluto, devo uscire fuori, dai, devo preparare la cena, quindi me devo organizzare. Ciao teacher, sentiamo. Ciao. Andiamo bene, Luca, carino! Vabbè, Luca! Ui! Già sono arrivato a casa. Gappa. Quanto è chiaro qua, 9:40. Carino! Adesso quanto è? 9:50. Cosa? Adesso quanto è? 9:50. Guarda. Ciao. Ehi, è 45. Sono 5 punti. Ma che strano. Ehi. Cazzo con me non c'è questo gioco. Aspetta che mi abbasso, vai. Allora, questo è il tuo passaggio. Questo non è andare la cosa, esitta. Ah sì, è giusto. Ma cosa non sta andando? Aspetta. Sì, è andando già. Ah ok, dai, lascia vedere. Sì. Te un segnalone c'hai. Luca, Santiago C, Radio 5. Ciao. Vai, te lo buco, la metti. Stavo salutando anche Antonio Poccanti che devo uscire fuori a organizzarmi. Poi ti ho sentito e mi sono trattenuto 5 minuti a salutarti. Sì, vai tranquillo, grazie, ti saluto. Rientrato dalla base, sì. Sì, rientrato. Vabbè, adesso faccio la settimana, poi vediamo. Divertito, sì. Per vedere il caldo più che altro, non avrei tutto a poco. Eia, sei un po' satto, dove ti? Vabbè, tranquillo, siamo qua noi. Io non è che mi trattengo molto, comunque adesso sono qua, dai. Aspetta. E adesso, guarda se è migliorato. Sì, è migliorato, ma la sede è compressa. Ciao a te. Gappa, adesso tra un po'. Devo andare tra un po' a fare una cosa. E via. Gioia. Sono un po' più soddisfatto però. Ora. Ora. Vabbè. È un po' il tempo fermo era. Ehi, sono qua, dai. Non per molto. Anche io, no, scendo un attimo giù. Chieve. E adesso le giornate iniziano a corciare, ma meglio. Non ho capito. capito. Le giornate si iniziano ad accorciare, ma è meglio. Già lo so già. Ok, beh, lui io ti devo lasciare, devo scendere giù. Ok, ce la risentiamo. Ciao, ciao. Comunque già sta andando, va. Ehi, ciao. Ciao, ciao.